peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi tre novità, tre dischi recenti, come ormai è costume in questa trasmissione cercare di proporre le novità, i dischi più interessanti che escono nel momento. Cominciando con un gruppo, una formazione che ormai ha diversi lavori alle spalle, già una decina d'anni di collaborazione stabile, è un gruppo guidato da un contrabbassista, Moppa Elliott. Il gruppo è Mostly of People Do the Killing, quindi un nome eterno, però per una formazione di quartetto piuttosto particolare, un quartetto stabile appunto da una decina d'anni che vede anche Kevin Shea alla batteria, John Airbagon alle anse e Peter Evans alla tromba. Il gruppo fu fondato appunto all'inizio degli anni 2000 da Moppa Elliott, un contrabbassista figlio di musicisti e di appassionati. Non ha una carriera particolarmente ricca alle spalle, anche perché poi è piuttosto giovane e fa parte di questa generazione tra i 30 e i 40 anni. Insieme a Peter Evans, un trombettista, un giovane anche lui, trombettista dell'area newyorkese, danno vita a questa formazione, a questo quartetto, che ha una serie, come dire, ha una filosofia particolare, una sorta di istrionismo, di cialtroneria, di presa in giro però fatta sul serio. La musica intanto un po' cialtrona, che deve essere suonata in modo perfetto per essere a livello valido, altrimenti scade naturalmente nella sciocchezza. È sicuramente uno dei gruppi più titolati al momento, ha avuto sempre, fin dalla sua nascita, una forte attenzione da parte della critica. Direi che il limite che può avere questo gruppo è di mantenersi sempre dei livelli isterici, estremamente forti, con una sonorità sempre molto forte, molto concitata, per cui si arriva a un senso di saturazione, almeno questo è quello che avviene a me. Ha questa caratteristica, indubbiamente, un suono della batteria piuttosto funky, cioè che tiene conto comunque dell'esperienza del rock, molto aggressivo, una batteria molto aggressiva, e poi la tromba straordinaria di Peter Evans, che ha un'agilità e una tecnica eccezionali. È uno dei trombettisti sicuramente più interessanti dell'area dell'avanguardia newyorkese. E poi alle anse, appunto, al sax tenore, contralto, sopranino, soprano, flauto, e John Airbagon, questo giovane sassofonista di origini filippine, che ha come dire, un talento che abbraccia un po' tutti i generi, lo si ascolta adesso sempre più frequentemente sia come leader del proprio gruppo che come partecipante alla formazione di Mary Halvorson oppure quella di Dave Douglas, sempre con ruoli diversi. Tecnica eccezionale, sonorità straordinarie, appunto il limite è questo, questa sorta di saturazione che viene suggerita dalla tensione di questa musica. Sono 9 i brani presenti in questo disco, sempre ha un aspetto progettuale anche la copertina, la parte visiva della formazione. In questo caso, in passato c'era una sorta di ironica ripresa di una copertina storica This Is Our Music di Coleman, oppure recentemente è uscito l'ultimo lavoro, prima di questo era una registrazione dal vivo, un disco doppio con una copertina che riprendeva il Con Concert di Keith Jarrett con Bob Elliott seduto al pianoforte in quest'area un po' sfumata. Anche questa, francamente, non ho idea di quale possa essere il messaggio, se non quello di un'ironia, di una sorta di gioco un po' naif che poi si ripropone. In questo caso la copertina riprende un rockabilly estremamente kitsch, e anche la musica risente di questo, però si sente anche molto altro. Ad esempio, visto che la formazione tromba, sax e batterie basso, sicuramente anche l'influenza colemaniana in questa musica. Ascoltiamo due brani, tutti e due composti dal bassista. Thank you. questi erano i Most of the People Do the Killing, questa formazione, questo quartetto con Peter Evans alla tromba, John Airabagon al sax contralto soprattutto, Mop Elliott al contrabbasso e Kevin Shee alla batteria. È una formazione che ormai da una decina d'anni è tra le protagoniste sulla scena newyorkese e che ha avuto un'evoluzione nel suo linguaggio, nonostante sia sempre concitato, teso nella costruzione dei brani, però ha avuto una sorta di evoluzione, si avverte un'evoluzione stilistica. Questo è un disco uscito recentemente per la etichetta Hot Cap, il disco intitolato Slippery Rock. E il prossimo, un altro dei protagonisti sicuramente, molto attivo, un protagonista che viene dall'area di Chicago, pur muovendosi molto nelle sue attività e collaborando con molti musicisti. Si tratta di Rob Mazurek, un trombettista che ha ormai diversi anni di esperienza alle spalle. La sua attività inizia dagli inizi degli anni 90 e ha peraltro un'evoluzione anche nello stile. Prima è influenzato sicuramente molto dall'ambiente di Chicago, dalla ACM, insomma, da Tribe Gill a Julius Enfield, questi musicisti, ma poi prende anche altre strade e naturalmente sente anche l'influenza forte di Miles Davis. È protagonista di innumerevoli progetti, uno dei quali, che è uscito di recente, è un Sao Paulo Underground, una formazione che lo vede in collaborazione con musicisti brasiliani dell'America Latina. Questo disco è uscito per l'etichetta Cuneiform, un'etichetta decisamente molto, molto attiva, meritoriamente attiva negli ultimi anni. Vede appunto una registrazione fatta alla fine del 2011, ma uscita solo poche settimane fa, vede una formazione allargata. Oltre a diversi musicisti che provengono appunto dall'area di brasiliana, sono anche presenti Nicole Mitchell al flauto, la flautista di Chicago, anche presidentessa della ACM, poi Jason Adasiewicz al vibrafono, John Herndon alla batteria. Insomma, sono collaboratori che da lungo tempo lavorano anche insieme a Mazurek, ma non solo. Poi, diciamo che le attività all'interno dell'area di Chicago, ci sono interazioni continue tra i vari musicisti. E anche in questo caso il risultato è decisamente apprezzabile e interessante anche per l'evoluzione, per il cambiamento anche di stile. È una musica che è fatta intanto di brani lunghi, pochi brani ma piuttosto lunghi, e molto collocabili da un punto di vista di un climax che si crea, una sorta di intanto una presenza forte di percussionisti, e ricorda, non può non ricordare, vista anche lo strumento che suona Mazurek, le atmosfere degli anni 70 di Miles Davis, ma anche una sorta di recupero delle atmosfere di Sun Ra. È una musica ben radicata, ben piantata nelle radici della storia della musica nera, del jazz, pur avendo queste influenze brasiliane, sudamericane. Sono influenze del Brasile che non sono certamente legate al samba. Ascoltiamo un brano da questo bel disco intitolato School Sessions. Thank you. Questo era l'ottetto di Rob Mazurek nel suo ultimo lavoro, School Sessions, fa parte del progetto Sao Paulo Underground, quindi un disco registrato a San Paolo del Brasile alla fine del 2011, un disco uscito per l'etichetta Cuneiform. Non so francamente quanto si possa apprezzare, quanto possa essere radiofonico, diciamo tra virgolette, l'ascolto di questa musica, che ha un impatto anche come dire, molto, molto denso, con questa ritmica che satura e crea questa sorta di atmosfera febbrile nella quale poi si muove la cornetta di Rob Mazurek. E questo era appunto quindi l'ottetto di Mazurek. Il prossimo invece, sempre uscito, disco decisamente ottimo a mio avviso, sempre uscito per l'etichetta Cuneiform, è di un personaggio particolare. Si tratta di Curtis Hasselbright, trombonista che praticamente agli esordi. Il terzo lavoro a suo nome, questo, ha cominciato a registrare, a incidere, diciamo, come leader di formazioni da pochi anni. Sono usciti due dischi notevoli per l'etichetta di Chris Speed, la Skrill. In questo caso è appunto uscito per la Cuneiform. E dico è particolare Hasselbright perché è un musicista che lavora ormai, uno dei più ricercati, più attivi sulla scena, soprattutto newyorkese, dalla metà degli anni Ottanta. Ha fatto parte praticamente della maggior parte dei progetti interessanti da allora fino adesso. Si tratta, non so, ha collaborato sempre nell'etichetta. Orchestra nella Ether Orchestra, una sorta di orchestra palestra per la formazione di nuovi musicisti. Dagli esordi ha iniziato la sua attività in questa orchestra, ma poi ha collaborato con Gunther Schuller, ha collaborato anche col figlio, con George Schuller, nella formazione dell'orchestra della Orange Then Blue, un'orchestra che ha fatto i lavori che ha fatto nel periodo in cui ha lavorato, ha prodotto cose di alto livello, ma anche con le formazioni di Matt Dario, penso per esempio alle formazioni anche di recupero delle tradizioni, della musica tradizionale nel jazz, Ballad Jack per esempio. Tutti questi progetti lo vedono come un attivo, un musicista attivo, un protagonista, però come leader non ha mai prodotto niente, cioè non ha mai prodotto nulla fino a 4-5 anni fa. Ben venga quindi questo lavoro, che dà prova ancora una volta, per la terza volta, di una maturità e un'inventiva, una capacità di costruzione musicale veramente notevoli. È interessante anche lo spirito di questo disco, un disco dove Hasselbright guida un settetto, tutti musicisti di prim'ordine, oltre che collaboratori da tempo, Chris Speed alle anse, Trevor Dunn al basso, Chess Smith alla batteria, Mary Alvorson alla chitarra, Matt Moran al vibrafono e Satoshi Takeishi alla batteria. È una musica molto, come dire, coerente. Sono 8 brani coerenti tra di loro, e l'influenza che si avverte, almeno che io ho avvertito, è del minimalismo, sicuramente un'influenza da parte della musica colta, di quanto può riguardare l'ambiente del minimalismo americano, ma anche certe esperienze condotte da Michael Riesler con la sua formazione del Circle, e sono atmosfere costruite molto, molto strutturate e dove la qualità dei musicisti ha modo anche di esprimersi con alti livelli. Ascolteremo un paio di brani, di composizioni appunto, tutte scritte naturalmente da Curtis Hasselbright, e che direi possono rappresentare degnamente questo bel lavoro. Il disco è intitolato peraltro Number Station. Thank you. Thank you. Questo era il settetto di Curtis Axel Bryant con l'ultimo lavoro Number Stations, un disco uscito recentemente per l'etichetta Cuneiform, registrato peraltro all'inizio del 2013. È una formazione dove naturalmente i musicisti hanno un ruolo definito e molto riconoscibile, per esempio il vibrafono di Matt Moran, che è sicuramente uno dei, diciamo che sia insieme a Jason Adasiewicz, sono i due vibrafonisti di punta del momento. Poi anche la chitarra inconfondibile di Mary Alverson, che abbiamo ascoltato nell'ultimo brano come conclusione di un brano che risente forse anche delle esperienze di Frank Zappa, insomma, e di quello che poi ha anche lasciato in eredità Frank Zappa nella costruzione orchestrale. E poi è anche inconfondibile il sax tenore di Chris Speed, che richiama come una sorta di oboe tenore, ha un suono molto cupo, molto, molto controllato. È una musica densa, una musica ben costruita, che ancora una volta sembra da prova di avere non soltanto delle ottime capacità di solista, ma anche di leader di formazioni e di responsabile progettuale di quello che possono essere anche lavori ambiziosi come questo che abbiamo ascoltato. Questo era anche l'ultimo brano per oggi. Le informazioni sulla trasmissione le potete trovare nel nostro sito radiocittafugico.it con nella sezione musica. Questo è tutto, salve, alla prossima. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.